Otamataka ke abande lo siro evo eva lo siri kiere. Otamataka ke abande lo siro evo eva lo siri kiere. Thank you.